sentire. Come la sentire? Vieni già qua. Michael. così, dai, non è così. Quando uno si ascolta che ci piace, poi gli altri, dipende come ascoltano sempre. Tutto lì. Comunque, diciamo, io adesso ho fatto due passaggi, diciamo così, per vedere un attimino. Tutto là. E niente a prescindere, diciamo, dal suo abbinamento standard, originale, e di casa madre e quant'altro, da quello lì non ci ci piove. Però logicamente, Claudio, se tu hai fatto caso, io dal primo passaggio ho usato un altro mic, diciamo che ha più acuti, diciamo, in proporzione a questo. Dispeso un paio di ore dopo pranzo, poi mi preparo, là se non fare burro, pare che non so come, non so come, non mi so come è bizzarro a chiamare. Ok, dai, sempre diciamo un secondino. Mi avete chiamato per caso? Sì, che c'è? Ho detto, mi avete chiamato? Da parte mia? No, non lo so, perché stavo facendo un lavoretto qua e volevo sapere se avete chiamato tutto lì. Che vedi, Gianni? Stavo facendo un lavoretto, come sto uscendo in radio? Niente, già sto bene, ma credo che ricordo che mi alzo, dai, che c'è il cambio anche, così almeno so, ma sono troppo rimoto. Anche io devo farmi il bagno e fra poco mi faccio il bagno e poi devo uscire, devo fare la bocce. Cava cava, Claudio, avanti. Ma siamo qua, stiamo un attimino il computer. Non so che Cristina, tanto si aspetta gli altri. Capito? Non so come è messo a posto. Lascio, adesso sto ripostando tutte le cose, perfetto, quelle rete ci sono, ottimo, ottimo. Ma mi sei imballato. Scusa, non mi sei imballato, ho riformattato. Nel momento come fare l'ho fatto, ho messo il dischetto di Windows, me l'ho riformattato. E mi è entrato quel virus della Polizia di Stato, mi si è aggregata. E me l'ha completamente bloccato. Che c'è lì? Il virus della Polizia di Stato, questa è la prima cosa che sento. Ma ti è mai entrato? Mi auguro che non ti entri. È una videonata. Il primo giorno di uscita mi sono cagato, ho chiamato la postale dicendo cosa che avevo fatto. Praticamente appare tutta la videata intera del computer e ti scrive, c'è tutto il coso Polizia di Stato, tutto proprio Polizia di Stato, c'è anche Guardia di Finanza, lo fanno, c'ho degli hacker che entrano nel tuo computer e te lo bloccano, e devi dare 100 euro per sbloccartelo, capito? C'è scritto il tuo computer è bloccato perché tu sei entrato in video protetti e non ti fanno andare né avanti né indietro. C'è una soluzione di un file che però è molto difficile, deve andare in modalità provvisoria, eccetera, eccetera. Io ho fatto prima, me lo sono riformattato perché avevo chiesto a Massimiliano se me lo faceva, ma detto me lo faceva, poi non si è più visto, quindi non ho chiesto più niente a nessuno. Mi sono un po' documentato, me lo sono fatto da solo, capito? È un virus molto, molto, è peggio del Troia. Proprio ti blocca il computer, non ti fa andare né avanti né indietro. E io ho chiamato la Polizia Postale, mi ha detto che sono alla caccia di questi, però ancora non li hanno trovati, capito? Ma entrando aprendo qualche cosa ti succede oppure così, il corpo senza aprire nulla? Apri qualche cosa magari che ti incuriosisce, roba del genere, qualche link che ti mandano, roba del genere. Ma guarda, io ho acceso il computer, stavo andando a vedermi la posta sul mio sito IS0DFB e mi si è bloccato il computer, è apparsa questa finestra e mi sono veramente cagato sotto, perché cioè, quando appaiono queste cose il suo computer è bloccato perché lì ha fatto eccetera, ma allora cosa vivere qui? E io ho chiamato la postale per sapere, mi hanno detto che è un virus, non preoccuparmi che c'hanno 250.000 chiamate al giorno di per queste cose, capito? E tanto se ne intendi una. Bobo! Aiaia! Tutte le trovano questi hacker, ma Gagucci mi piglia nei rompi di cazzo, non so come, che cosa dire, non so che cosa dire proprio, questi hacker addirittura entrano anche nelle banche, a Vips, roba del genere, sono riusciti anche a entrare a Vips, figurati tu. Se lo vedi, è un casino, se lo dici. È un casino, vabbè, comunque, mi lo trovo, funzionando tutto, ho rimesso il radio, mi sono rimesso tutto e adesso piano piano mi ho recuperato un po' di roba e me lo sto sistemando. Ho ancora, figurati tu che ho un bel di problemi per entrare su internet, sto entrando dai preferiti, meno male me li avevo memorizzati, perché dall'icona non mi fa entrare, figurati cosa, tutto danneggiato. Adesso devo vedere un attimino, sto facendo la pulizia, vediamo cosa succede. Ho sbagliato il microfono, come era subito. E vabbè, mentre siamo felici certe cose, perché tante volte se ne puoi fare a meno. E a me una volta mi avevo fatto cosa, perché mi avevano mandato a me questo link, e ti diceva di aprirlo, eccetera eccetera, diceva una cosa curiosa, tu andavi a aprirlo e ti entrava il virus. Però io non mi sono accorto di niente, l'ho messo su Facebook pensando che fosse un link, e molta gente l'ha aperto, ci sono tutti che guardi come, sei sicuro che potete aprire i link che vanno lì, non li apriti, io non ne ho colpa, ma mi hanno mandato quel link, mi dice, per saperlo, l'ho aperto anche io, me l'ho preso anche io, dico, se fatti un conto. Ok, Claudio. Sì. Ok, ma hai il dischetto originale Windows? Sì, Windows XP Professional, ho dovuto tutto rifare qua. E adesso sono un po' in difficoltà perché mi dà dei passaggi diversi e quindi sto cercando di metterlo come era prima. Ma un casino, Sandro, ho fatto che non ti dico, guarda, una cosa allucinante. Ok, no, perché il mio ogni tanto glielo faccio, il mio ogni tanto quel lavoro glielo faccio, e logicamente adesso tu devi scaricare dei driver, capito, delle varie opzioni, diciamo, e quant'altro, se non ti urge, se non c'hai fretta, se te lo guardo e te lo rimetto su. Non ne ho rifletta io, è già troppo, e sono riuscito a fare questo perché io col PC non è che sono un perno, non mi è mai interessato, però le cose principali sono già adesso a fare, adesso piano piano sto rimettendo tutto a posto, vediamo. Ok, vabbè, ci vuole del tempo, prima di tutto che una volta installato e fatto tutto, scaricato i driver, diciamo, e così via, non li devi mettere le impostazioni di aggiornamento, capito? Quelle proprio le devi annullare, perché se le incidi, diciamo, il discorso degli aggiornamenti, guai, lui ci vuole 3 giorni. Infatti quello sicuramente mi ha fregato, perché ho fatto gli aggiornamenti, non dovevo fare, addirittura non riesco ancora a far entrare l'antivirus, figurati, non mi si attiva l'antivirus, mi ha fatto tutti gli aggiornamenti, però non me lo attiva. Ecco perché, sì, perché lui va sempre in aggiornamento, capito? Va sempre lì a aggiornare, non la finisce mai. Io gli aggiornamenti li escludo completamente. Una volta, diciamo, che lui è formattato, che gli butti dentro, diciamo, il suo dischetto originale e quant'altro, a fare, diciamo, devi scaricare i vari driver, diciamo, e così via, e gli aggiornamenti li blocchi, perché sennò lui va sempre aggiornare. Una volta che vai a buttarvi dentro, diciamo, l'antivirus, delle volte l'antivirus è compatibile, non è compatibile, l'antivirus ogni qualcosa, lui è sempre in avanguardia, quindi o te lo rallenta o te lo blocca, insomma ti crea sempre problemi. E per questo motivo gli aggiornamenti, diciamo, io almeno da parte mia li ho esclusi, e rimane più leggero, diciamo, è tutto. L'info sa, adesso ci riprovo, lo vediamo un pochino, in ogni caso già è a buon punto, mi sono entrato nei preferiti, E mi sto facendo due aggiornamenti, ok, grazie comunque, quando voi sono qua. Gianni, a te, fai girare che sono qui due secondi. Ehi, mister, stavo facendo scaldare questo apparato che ho da un po' che non l'ho attaccato. Ogni tanto bisogna attaccare qualche cosa di nuovo, perché sennò si rovinano quei gelosati. Non mi dice attaccare, ho detto per fare scaldare. E adesso che posso la sera, mi posso dire che lo faccio girare a uno a uno. Signor Radio 5, in online, ok? Segnale 7, ok? Oh, 9, è un north, è un 9, ok? Scusa. Very good, io non so così che ho fatto. Attenzione collega, se ascolti l'operatore Gianni Doppio Lungo della città di Sassari, Nord Sardegna, Italia, che chiama. Davvero. Sì, ok. Victor. Ok, maestro. Thank you very much, Turkai. Turchia è lì. Maestro, ciao. Ciao Victor. Ci sentiamo. Alle prossime. Saluto, bye bye. Bye, stranger. Ma da cosa, boh? Oggi la cosa si combatte. Magari c'è propagazione, non lo so, ma infatti. Poi c'è Colmira. Colmira? Io qua. Prova a vedere se sta cosa a te, la matta dei Ryan. Cosa preparare? Ci sono visto. Gianlu, buona a te, buonasera. Buonasera e ben ascoltato. Mi sto preparando le coperchie. Stamattina le ho tutte le rigate portate a zero, proprio la mia era viva, fatto proprio liscio, poco fa gli ho dato il fondo. Sì, il fondo l'ho dato veramente sì, a bomboletta. Ci sono il fondo motivo, sono una parte usata di aeroporto, c'è la bomboletta e sono bene. Io, Gianluca, non lo volevo fare nero, hai capito? Lo volevo fare bianco invece. Positivo, sì, posso fare anche così. No, poi sai, c'è una lana di vetro che si passa e ti toglie proprio tutto, tutto, e te lo fa diventare proprio liscio, liscio, liscio, liscio, come il mattone. Si chiama la Scotch Brown. Bravo. Si chiama Scotch Brown, quella lì devi... ce n'è una, un tipo, almeno io quella che uso io, ecco dai, c'è un tipo grigia che rimane più grossa, no, rossa, rosa amaranto, che rimane più grossa, e quella grigia leggermente di una composizione più fine. Quella si usa per fare i cerchi dove magari non entri, che c'è la polvere, perché la carta fa un pochettino di cose, dopo si rompe, si tagliuzza, si consuma prima una parte dall'altra e sta sempre cambiando carta. Invece quella la usi perché la chiappi con la mano, la fai a tipo un gomito, no? E tu frei, è buona. Quella lì, io in poche parole, quella lì lo usavo per fare le cornici, quelle decorate, dove non entrava la carta, hai capito? Quando facevi le cornici decorate, le passi quella e te la fa luce, la liscia liscia pure, e negli angoli anche. Sì, sì, ieri io sono andato l'altro giorno a fare un lavoretto da un amico mio, per Giampaolo, e appunto aspettava il buio, stava preparando dei scorrimano, che lui fa, c'ha una carpenteria, che fa la carpenteria e costruisce cancelli, ringhieri, che cose, no, su misura. Sta parlando questa pellice sintetica sullo scorrimano, che questa signora qua gli ha chiesto tipo oro antichizzato. Allora lì, secondo la vernice che lei si spruzza, si fa tipo una passata veloce, diciamo così, a dare il colore come base, dopo le da una mano, dopo fa asciugare da un'altra mano, dopo le fa le sfumature tipo invecchiatura, magari con anche che si usano queste spugnette, queste cose qua. Si dà una passata della navigatura con questa Scotch Brown, in modo che le va, tipo magari da una parte c'è uscito più nero oppure meno nero, capito? E si usano queste cose qua per sfumare. Positivo, positivo. Ma sono così così, no? Di togliere proprio quella ventola o Gianluca. I cinesi la vendono uguale, però color blu, hai capito? Quando gira è bellissimo. Ho detto, quello che vendono i cinesi, magari il motorino di chi si un po' andanti là, non è di quelli proprio buoni, provala, ma se la per raffreddare bene ti consiglierebbe se ruggiare. Ah, non è a motorino, è a corrente, hai capito? Ma si alimenta dall'interno, capito? C'è la corrente che si prende, a meno che non gli fai uno spinotto, Gianni, ma Gianni, ma su via, le puoi fare uno spinotto e la diventi con un trasformatorino piccolino, però una cosa anche fatta bene magari, dove c'è spazio, bucare la griglia del tappo di dietro dove c'è l'attacco delle DPL, bucarle uno spinottino da pannello, anche di quelli a gechi tipo cuffia, maschio e femmina, e attaccarti con l'alimentatore. Nasce già così dalla casa, quello è vero, e basta allora sostituire quella che c'è con quella che stai dicendo tu. E in positivo, a poche parole, quello sto dicendo io, quando tu la colleghi all'elettrico, nelle pale c'ha, siccome ha quattro pale, c'ha dei piccolini azzurri, capito? Però la vedo la cosa di essere nero, è tutta trasparente. Quando si mette in funzione, che tu accendi, si accende un led, inizia a girare la vedo e vedi questa cosa blu girando. E là, senta che c'è anche Giampaolo, Massimiliano, che mi sono dimenticato anche di rilanciarlo, Scusa Giampaolo, riprendi per cortesia. Io non lo sapevo neanche che c'era, la verità. Ecco sì, che lo saluto un attimino. Comunque riprendete che sto finendo, sto terminando, avanti, là. Riprendi ma si viene a far girare per il resto della ruota. È positivo, là. Penso che ti stai cambiando per iniziare il lavoro. Ok, va bene. Avanti. Allora ci rimasto. Vediamo un po'. Gianpaolo, Gianluca sta cambiando. Gianni, Claudio ci sei ancora? Vabbè, magari l'inquirizio. Ascolta, avanti Gianni. Ok, va bene, là. Scusate che stavo facendo qualcosa. Se vuoi riprendere, se no riprende Gianni, dai. Poi adesso io vado a farmi il bagnetto, che non mi sono ancora lavato, forse proprio gribbando, non ce l'ho fatta manco a farmi il bagno, mi sono dato una sciacqua a lui prima di mangiare, poi adesso vado, ve lo faccio tranquillo, mi lavo tutto. Una sola. Che si vuole? Mi lavo tutto. No, no, ma dammi dai. Fate da giù, una sola. Dai, riprendi chi ci è rimasto, Gianluca, avanti, riprendi tu e fai girare, io faccio un correttivo, saluto e diciamo che vi ascolto, perché per la vasca vi ascolto, però non rientro. Riprendo io che Gianluca stava cambiando, là. Ok, io vai, fatto il bagnetto, va. Non c'è problema, già siamo qua. Avanti, Gianpa. Tanto sta andando a farci il bagno, hai capito, quindi ha fatto il correttino. Prendo una vasca generalmente a casa Giulia, infatti mi ha detto, adesso mi ha detto in vasca e mi lavo tutto, ha detto, no, dammi il taglio, culo, si vola. Va bene, dai, va bene, c'è anche Claudio che sta facendo cosa, non so se è rientrato Gianluca, gli ha finito di cambiarsi, Gianluca, sì? Non sto facendo aggiornamento al computer. Ma già sono qua io, c'è problema. E io l'ho sentita a distanza, ciao Gianni, ciao, ci sentiamo più tardi se tutto coincide, ciao ciao. Come back. 5 minuti a portare quella roba tua. E tu invece cosa mi dici? Non cosa stai dicendo? centrale fa il gruppo a buffo, senza stare lì a dire nulla e basta, poi quando ci vogliono te lo dico in verticale, perché a volte fare del bene significa prendere nel culo, capito? Cusciamo ci vede. Rappoggio. Proprio di culo? Io non intendo che si indossi, questo è il test. Come mi viaggi la fava? ce l'abbiamo nel cuore. Era positivo, positivo, ok. Ma qua il segnale com'è? Cambia? Una settimana ce l'hai. Ho già portato stazione da casa, mamma mia, mi sono scelto il medico, non è vero, voglio queste mura, guarda. Ha fatto quei fiori? Eccomi. È positivo, qua. Ehi, vabbè, ma quello non la fa sulla carta, o la fa dove gli capita? È positivo, guarda, avanti, qua. Perché tu non la stai portando ancora? Non te lo so dire, ma forse è ancora troppo piccolina, ma non lo so. Spostare se ti stai più lontano dalla radio, capito? dietro al computer e sto facendo un lavoretto, è troppo questo, non è giugano, per me me ne stanno bucando, che è tutto il suo, è troppo spesuccia, e via. Allora, poi Massimiliano, il primo di tu hai già parte di questo papà. Yeah. era mio hermano. 7351 appeso del tuo cuore là. Era per la nord delta romea della città di Sassari che ti supercorbolizza. Sassari, Sardini, Italia, avanti mio hermano. Ah, massimo. Già, aspetta il mio radio. Ripeti, l'ho controllito mio hermano, l'ho controllito che non l'ho copiato. Allora, il tuo controllo è Santiago del 4, la radio del 3, dai. Ma ti scuccio spesso, ti scuccio bene. Avanti Massimiliano, avanti mio hermano. Attento mio hermano, si ascolti qua, operatore Massimiliano, isola nord della Sardegna, Italia, delante per te. Hai lanciato, la scegli? Sì, tornato, stazione Doberman. E chi ti ascolti con la radio le 3, Santiago le 2. Muy, muy bacio, Ok. Ripeti tu che c'era l'ascolto un bel passo. Grazie, Rosari. Ok, mio hermano, dai, Massimiliano operatore dell'isola nord della Sardegna ti saluta, 7351 a te QRA familiare, un forte abbraccio, buona tarde, se... ciao ciao. Quella cosa là, vedi a pigliartela, che ce l'ho a casa. nuova massa. Adesso veniva a prenderti quella cosa che è a casa. Vediamo. No, ma che va bene, poi va bene, non... mi piace come parecchio, capito? E non mi sono assai giudici, qualcuno c'è, ma niente, niente di che. Dai, già non mi lascio in idea, però tu soldi, ecco, se la mille luci. Come ha fatto con Salvedo che diceva ti sei arrivati, io l'ho sentito vedi come lo diceva tutti quanti tra e Roberto l'ha messo a posto e poi l'ha messo anche la scheda. No, io l'ho messo a posto Roberto, Gianni, se ti ricordi bene io l'ho sistemato a Adriano. Lo dobbiamo pagare l'anno passato, ma purtroppo No, me l'ha permesso le condizioni di salute e ha già zittato. Ah, vedimmo, più in là, se fa una bella giornata, ci una diminuirabiglia, anche se viene bene da me, è comodo a levarne la casa, però se è venuto il bisogno vivo. No, salire adesso non fa proprio questo freddo, no, ci vuole una bella giornata, non calda a casa, troppo calda non va bene. Una giornata tipo 15 gradi così, 16, va bene. Ci sale un attimo, ci vuole un paio d'ore a farlo. Dobbiamo buttarla giù, cambiare il palo io, perché quello che c'è non va bene. Ragazzi, vediamo, se mi rimangono soldi, se no rimane in bussi, quando mi va, dobbiamo fare nuova. No, io in campagna c'ho un tubo in occhietti che è bello grosso, infatti quello me lo voglio fare una bella passata di vernice, di antifruggine e quella vernice. E voglio operare quello, capito? Anche io che il tubo di leva, nonostante c'erano i tiranti, uno è partito il tirante, perché con l'antonello non ci abbiamo fatto caso, sfrega adesso, sfrega dopo sopra il cornicione del tetto, cazzo di ramagnate e si è troncato, è per quello che si è piegato il tubo, capito? E invece se io ci metto il tubo innocente, se pongo i cal, ma con i bocco di ranti, è un'anda. Vabbè, le tappe sono di quelle autocostruite, adesso se riesco, chiaro, metto pagando ovviamente, me le faccio fare come dico io, tipo quelle che mettevano bene tanti anni fa, per quei panni per tenere i capi, così. Se ne fanno così, quelli muoiono, capito? Durano una vita quelli. Infatti di queste qua ci sono adesso, non mi fido a lasciarle perché sono arrugginite, no? Magari durano, non è detto, ma comunque per sicurezza non è cambio. Adesso vediamo, tempo permettendo, speriamo le persone che abitano lo so, non fanno le palle perché non mi fanno salire sempre. Devo trovare il tempo giusto, ecco, perché se mi rompono le palle mi tocca bisticciare, io il mio carattere lo conosco, è giù di gabbo, perciò vediamo un po', se riesco sono rimane così, quando è cane non lo metto più e ci butto tutto. No, io lo sapevo, quando c'è in campagna sono grossi un centimetro, sono proprio di quelli che usavano l'Enel per mettere i misipali, quelle però le lascio murate, cioè le recupero quelle, la rubo al rubiccio, oppure guardo me le copro, già le prendono, sono belle grosse, zingate, quelle durano una vita, murate bene e vogliono come ho murato bene quelle di campagna, o se no per non perdere tempo gli faccio quattro pure e ci metto quattro dadi di quelli a pressione, a una parte, quattro all'altra, se ne voglio 8, 16, 16. Cazzo, ma con chi si sa che non andare nessun luogo, perché i bolloni sono da 17, zingate, a ogni anda. Oh! Vabbè. Va bene, sempre stata bene già. Quindi da poco mi si è staccato un tirante. No, sono strano, non è vero. Si è rotto. Sono salito su e l'ho sganciato perché era un scivolo molto lungo, no? L'ho aggiunto e l'ho rimesso. Poi sono due, fai il telefono. Ehi! E cosa stai vaccinando? Basso i geni, al montante della porta, la nuba, il guinzaglio, e lo tengo legato lì che c'ha la cuccia, però lui nella baschetta della sabbia non può andare a pisciare questa stronza, e allora gli metto il giornale, capito, del foglio di giornale, sotto gli metto di un foglio di Nuova Sardegna e poi di quelle riviste e poi sopra di nuovo due fogli di Nuova Sardegna e gli si imbecilla e andai gli va a picciare, la bacchetta non fa, andate via. Camminare era abituale, con tre gatta, tu hai avuto la vettina del gatto, non è? Una bacchetta rettangolare sarà 60 per 50 con la sabbia, con un gatto che vanda, non vanda. E allora le pongo il giornale a Cristo, quando me l'abbiamo dato, in casa di chi sapeva, tutta la casa da pensata il giornale in terra, e dico, tra me non gli ha rimandato, cazzo come ti mandate il giornale, porti devi in bianchina, ma è tutta la casa in terra, ma Tony, probabilmente non ne vedi, invece ma cosa era, a chi va via che si cucciuccia e pisciava lì. Ma l'ubriaco, mi sta l'ubriaco, mamma mia, no. E bisogna arrivare di giorno e basta, quando devi andare a fare i bisogni, a quello che devi, devi portare giù. Io già lo porto, cazzo che male ha già arrivato quattro buche. Due buche, cavani, una buca prima di magna, poi una buca l'abbiamo mangiato e altre tre volte fino a poco fa, fino a un quarto d'ora fa l'ho scesa, la lascio un po' giù, no, ci rimango anche io, la chi è femmina, però già non ci allontana più di tanto, sta di spegne a bai denti, mi devo chiedere ma più, anche me li buchi, ma cu, cazzo, la vedi come la razzo. Si spaventano, ma che cosa c'è, io cristiano? Un incrocio, ma è minoretta, niente, un carboncino al buccio non la vedi. È tipo spinone romano, così. Però è piccola, non è che è grande, cazzo mi pare che verrà giù già 9 anni, se non mi aveva dato i ragazzi la mano. Figurati. Vabbè, ma è tutto abituale, grazie. Quando ti abitui a fare il loro lavoro, perché io ce l'avevo il cane, tre volte al giorno l'ho portato, la mattina presto, allora di pranzo alla sera, prima o dopo cena o prima di cena. Ma vedete quanti volti, là di un buco in cutta, è stato un buco, un buco a bassa 30 anni, ma fa per un prendi a farglielo vedere, oppure mi rendi la grappa là così si da sopra i vino. Oh, non ne fate più, né ci fate giacca, andare un bambino se ne fate il bambino. C'era piccolino, l'ha abituato così, capito, e se ne è andato a luce, ma così si ammazza per rire, mi sono con le difficili, né, né mia moglie, né mia se ne è andata via, allora no, gli metto in un anno nell'angolino dove arriva l'Italia che anda sempre lì e gli metto già non ci passa sotto perché ci metto le riviste anche, capito? Però il giramento di balle, cazzo, uno deve sempre buccare il giornale. Da poi ogni notte devo fare il suo travaglio, cazzo devo piazza preparare un gomito alla zoata. Non ti ho copiato, Danny, non ti sento più. Ti arriva. Attento, Carmencito. Danny non c'è più, è scivolato. Stazione Gufo. Stazione Gufo. Mi copi. Buffo, Graziano. Graziano Buffo di nominativo. Non ho copiato bene questo passaggio, dove sei? Non ti copia bene, e che trovassi? Grazie. Ti devo lasciare che mi ho telefonato mia moglie con i miei amici che sono andati dal buio, andiamo a mangiare fuori. Allora, buon proseguimento, intanto io qua adesso spendo, ciao già, salutone circolare, a chi era assolto. Alle prossime. Ciao, ciao, grazie a tutti gli altri amici là, che sono in ascolto. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Massimiliano,